Pubblicato sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia di Luca Giambonino dal titolo Luce. La porta s'apre e giunge finalmente uno spiraglio di luce. Anche nella vita mia ogni tanto qualcosa va per il giusto verso. Fiero ne sono e contento altrettanto.